e Sant'Ardone di Aniano. Ok, d'accordo. Accadde oggi. Accadde oggi. Allora, nel 1912 Roald Amundsen annuncia la scoperta del Polo Sud. Quella, insomma, importante. Polo Sud. Eh beh. Che è una maglietta fatta a Napoli. Eccola lì che l'ha detta. Le prudeva questa battuta. Andiamo avanti con l'altro anniversario altrettanto importante, parla di lingua. Sì, nel 1965 la lingua italiana entrò in chiesa, quindi si abbandonò in parte il latino per permettere all'italiano di in alcune parti di essere. Alcune chiese fanno ancora le alcune chiese in latino, sì. Non guardi me come se io sapessi qualcosa, proprio io. L'ultima volta c'era ancora in latino. Che poi la messa in latino è bellissima. Sì. È bellissima. Certo. Molto bella. Mi ripete alcuni passi, anche cantati se vuole. Vabbè. Andiamo avanti. Nel 1933 invece nasce il Monopoli. C'erano due anniversari importantissimi, noi ci siamo concentrati un generale sul Monopoli. Ma perché è un scusami, gioco, dal 33 ancora oggi abbiamo nuove versioni, c'è l'Ultimate Banking, quello con la Ultimate Banking, quello con la carta di credito. Ci ho giocato. Strisciare al Monopoli. Hai la carta di credito per fare i pagamenti, devono essere tutti tracciati, d'altra parte lo vuole anche. Ci ho giocato. Sono passato al via, me l'hanno tagliato. Come? Non ho più soldi neanche per vicolo corto. Zero. Corrisponde alla realtà. Corrisponde proprio alla realtà. Brava Tognini. Grazie Monica, grazie a tutti voi. Visto che abbiamo parlato di Monopoli, vale la pena parlare di giochi da tavolo, perché chi non è appassionato di giochi da tavolo? Mannaggia ragazzi. Il Monopoli però è il mio preferito, perché è come la vita. Sì. Cioè tu parti, hai questa mazzetta, la curi, la coltivi, fai investimenti e poi a un certo punto perdi tutto. Cioè, mi sembra veramente una metafora. Però anche vivere l'illusione. Ci sono le probabilità, ma anche i rischi. Io mi ricordo che nelle probabilità c'era vinci il secondo premio di un concorso di bellezza, chissà se c'è ancora. C'è. La tiravo su e tutti ridevano, chissà perché, non so neanche io. 342 41 41 762. Andiamo ragazzi, c'è Edoardo Bennato con Afferrare una stella. Nel frattempo riflettete un po' sui giochi da tavolo, visto che questo sarà il primo argomento di questa mattina. Eccolo qua, Edoardo. Chi non ha sognato mai il trovato mai e sogna ancora, e chi crede che non vale più la pena di cercare, e che è solo un'illusione tutta questa grande attesa per il grande amore, e che non farebbe solamente bugie. Cosa c'è da vergognarsi di soffrire e tormentarsi, e magari di rischiare fino anche di morire per il grande amore. Bene concentrati su traguardi più importanti, su problemi veri. Niente storie, favole e chimere. Restiamo con i piedi per terra, non si può afferrare una stella. Ma chi non ha sognato mai seguirebbe una vita intera, e chi cerca la vettura che duri solo la sera, e poi niente sentimenti troppo ingombranti, cose da altri tempi. We'll be right back. Questa è Radio Monte Carlo, buongiorno a tutti dalla squadra del mattino. Allora, cominciano ad arrivare messaggi sui giochi da tavolo. Assolutamente, il Monopoli ci giocavo da piccolo, perdevo in lire, adesso gioco con mia figlia di 8 anni e perdo in euro, per cui il mio capitale è diminuito. Ma i ragazzi e i ragazzini comunque sono molto avanti perché hanno capito l'importanza dell'investire, per cui compra, mia figlia compra qualsiasi cosa. Ho capito, ma non è una condotta, bisogna invece risparmiare, bisogna, bravo, serbare. Bravo, tra l'altro ricordiamo che gli euro ora sono rimasti solo nel Monopoli, cioè sì. Veri non se ne vedono più, quindi è ancora più ragione per tenerli con sé. Sai che hai ragione, l'ultima volta che ho giocato era in lire il Monopoli. Anche io, sì, devo dire. Quando sono passati agli euro pensavo, ma che, vogliono che io ricompri il Monopoli nuovo per avere gli euro? Ma col cavolo proprio. Che mi costa doppio. Peraltro i giochi da tavolo si dividono in due tipi. Sì. Io da piccolo prediligevo quelli lunghissimi, di partite di 3-4 ore, appunto Monopoli, Risico. Il Risico, sì. Risico è interminabile. Adesso ho meno pazienza. Sì. Adesso proprio tris, capito? Ah, sì, solo sì tris. Perché dopo 3 ore di Risico uno vuole solo consegnarsi al nemico, dice fucilatemi, certo, sulla ma pubblica piazza. C'è ancora basta. Qualcuno che gioca al gioco dell'oca secondo voi? Che secondo me sì. Era bello perché comunque anche lì diventava abbastanza lungo perché se sbagliavi tiro ti faceva tornare indietro, sì, e via dicendo. Io non ho mai capito se esista un gioco dell'oca ufficiale uguale per tutti o se ci sono varie versioni. Dipende dalla zona. E allora sono varie versioni, certo. Non lo so. Boh, c'è l'oca padovana. Giuliva. C'è l'oca Giuliva. Al limite che me ne segna a posto. Sì, sì, lei sì, giocava sì. Porticelli. Il gioco dell'oca? Come no? No, giochi da tavolo. Assolutamente sì. Faceva il segnalino. Ma come il segnalino? Ma accidenti. Beh, in effetti è alto anche come il fiasco del Monopoli Porticelli. Potrebbe fare quel mestiere lì, dovesse andare male la radio, lei si ricicla come può guidare la macchinetta del quello Monopoli. Quello d'inverno, d'estate invece faceva gli scacchi viventi. Allora basta. Vabbè, quelli però sono adulti, insomma. Comunque a scacchi per esempio ero un buon giocatore. Ho anche vinto un torneo di scacchi. Alla fine. Quando ero ragazzino. Lei spostava i pezzi di nascosto. Si intrufolava sulla scacchiera, mangiava una. Ho ritrovato proprio la medaglia qualche giorno fa. Ma va bene, comunque i giochi da tavolo non moriranno mai perché predispongono cioè alla compagnia, al divertimento. Sì, sì, poi c'è sempre una gara perché con gli amici scattano delle risse incredibili, soprattutto a Risico. Io conosco uno particolarmente rissoso in quei casi. Col quale è quasi impossibile giocare. Beh, è giusto, Risico è un gioco di guerra, quindi è giusto combattere. Ci sono anche i giochi di timbro un po' dark, qualcuno cita il Cluedo. Il Cluedo da piccolo mi spaventava moltissimo. Cluedo. C'era questo omicidio, io non riuscivo. Io una volta, pensate, dissi ai miei genitori di portare il Cluedo in cantina perché non riuscivo più a stare camera con la scatola. Sai chi l'ha inventato il Cluedo? No. Jessica Fletcher. Pensavo Montalbano. No, perché lei arrivava, moriva qualcuno e da lì gli è venuta l'idea. Pensavo Montalbano che... No. Ieri ho visto Montalbano, bellissimo comunque, sì. Sembrava veramente una trama molto elaborata, sì. C'è un omicidio, nessuno capisce niente, vengono ammassati tutti uno dopo l'altro, quelli coinvolti. A un certo punto Montalbano riceve una lettera e dice sono stato io, bellissimo. Che indagine era, ma vabbè, comunque, va bene, molto va bello. Bene. Eravate campioni in qualche gioco da tavola? Scriveteci. Siete ancora dei campioni. Quello da tavola è un'altra cosa. Da tavola anche. Beh, esiste anche il gioco da tavola, che è molto divertente, sì, sì. E appaga, no? Certamente. Comunque il numero è 342 41 41 762, adesso Red Hot Chili Peppers. Say goodbye to house and everything you own. California dreaming is a pettibone. LA screaming, you're my home. Vanity is blasted, but it's really fair. I can smell the Prozac in your pretty hair. Your head in this location is my home. 22 minuti, Radio Monte Carlo, giochi da tavolo. E allora c'è la spiegazione di quello che racchiude il gioco dell'oca. Il gioco dell'oca è un labirinto popolare dell'arte sacra e raccolta dei principali geroglifici della grande opera. C'è dentro delle... La grande opera cos'è? Il ponte sullo stretto, la TAV? Il CERN? No, non sarà qualcosa. Che ne sappiamo? Questo lo dice Fulcanelli, che era un grande alchimista del passato. Esatto, insomma, esatto. Quindi struttura spirale ripartita in 63 tappe in cui ricorrono alcuni simboli fissi e conduce verso il raggiungimento del centro, che è il giardino dell'oca, meta di un cammino sapienziale iniziatico. Alla faccia. Hai capito? Ma molto profonda come... A tutti piacciono i giochi da tavola. Michela dice: ciao ragazzi, odio i giochi da tavolo perché mi addormento subito. Sembra che dalla scatola esca qualcosa di magico, non riesco a tenere gli occhi aperti. Ma dai, anche io avevo questo problema. Veramente? Da piccolino, sì, da bambino. Poi è passato. Da piccolino. Ciao, ciao amica. Ciao. Allora, ragazzi, numero 342 41 41 762. Radio Monte Carlo. Great music. Up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Time asks no questions, it goes on without you. Leaving you behind if you can stand the pace. Your day unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. You gotta be bold, you gotta be Gabi, questa era Desri su Radio Monte Carlo, 7.32, sta sorgendo il sole anche sul Principato di Monaco e si promette comunque una bellissima giornata. Ma che bello! Cielo terso, magnifico. Che bell'alba. Bene, bene, bene, i giochi da tavolo, scrivono in molti, tanti che sono dei piccoli campioncini di giochi da tavolo, altri che invece non hanno mai giocato, ad esempio un nostro amico che non si firma dice: mai giocato, il tavolo di casa mia era perennemente occupato da panni da stirare e pasta sfoglia, tutti in cortile a giocare a pallone a far dispetti un amico. Visto il messaggio, crediamo che la zona potrebbe essere Emilia Romagna, diciamo. Pasta sfoglia, scusa. Potrebbe, se magari tanto mi da tanto. Magari ci sbagliamo. Correggici, però, amico, se esatto, ci sbagliamo. Sì, altri sì, dicono gioco da tavola, mangiatori di anguria, ma non è quello la chiave. Gioco da tavolo con le pedine. Quello è quelle gioco da tavola. Mi piace solo il Trivial Pursuit, scrive un amico. Lì c'è cultura, c'è. Sì, però anche il Trivial è un po' particolare, perché alcune volte le domande da uno, che dovrebbero essere quelle più semplici, sono più complicate di quelle da sei. Perché sei la componente di imprevisto, è come, certo, l'esame facile, sì, ti fa una domanda, sì, difficile. Sì. Io la laurea non l'ho vista neanche nella realtà, figuriamoci. Solo quelle mi posso permettere. Qualcuno infatti si lamenta proprio della lungaggine proprio dei giochi da tavolo, però Si mette meno a prendere una laurea vera che finire Trivial Pursuit, la gente, sì, alla fine dice, suggerisce. Però per esempio nel caso del Monopoli hanno studiato questo nuovo Monopoli perché hanno cercato di snellire anche la durata, per cui i tempi si sono veramente più, sì, corto? Sì, molto più corto. Vabbè, sì, intanto senza le banconote non capisco perché uno debba usare il Monopoli, cioè il bello del Monopoli è avere i bigliettoni di banca, adesso si striscia, certo, la carta di credito, ma mi finisce moneta la poesia, virtuale, ragazzi. Beh, certo. Io mi sentivo molto ricco quando avevo i miei soldi. Ah, ti piaceva Monopoli, avere le mazzette? Sì, sì, eh? Sì, duravano poco perché investivo sempre male. Perché ma come, il mattone è sicuro, dico. Ho capito, ma mi beccavo sempre vicolo corto e vicolo stretto, vabbè, sempre con i due lì. Vicolo corto, scusi, poteva cederlo a Monticelli, che gli sta largo. Mai, cos'era, Parco dei Giardini? Parco della Parco Vittoria. Parco della Vittoria. Viale dei Giardini. Viale dei Giardini, bravi. Quelli viola, quelli, sì, belli. Quelli viola, esatto, sì, che esatto, valgono molto. Sono un po' via della Spiga di oggi. Ma a proposito, lei ha giocato alla dama che le abbiamo regalato? Quella alcolica, no, sì, abbia pazienza, non io non faccio queste, questi anche giochi da rigazzini. Può metterci anche del succo di frutta. Non è allora a quel punto allora facciamo il Monopoli con la carta di credito, dama alcolica o succo di frutta, non so. Ma i tempi cambiano. Certo, anche c'è la moneta virtuale. Cambia. Ecco, ci sono i salutisti, per cui va bene. 342 41 41 762, sono le 7.35 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo con la squadra del mattino, giochi da tavolo ancora se avete voglia di scrivere. Adesso c'è James Arthur e questa è Say You Won't Let Go. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. First in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head, and I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown, and I want

Happy birthday! RMC Trilogy. Happy birthday! Buon compleanno a Tiziana da San Martino Canavese, in provincia di Torino, che compie gli anni oggi e si autodedica a questa splendida trilogy. Ci sono all'interno Pink, Paul McCartney e il grandissimo Michael Bublé. Buon compleanno, Tiziana! Auguri, auguri! Auguri. Happy birthday, darling. Happy birthday. Happy birthday. RMC Trilogy. Happy birthday. RMC Trilogy. Happy birthday. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved. When you said goodbye, I'll take up my time with thinking of a breakup. Then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. RMC Trilogy. Happy birthday. Someone knocking at the door. Somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor. Open the door. I let him in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door. I let them in. Yeah, let them in. I the bell. Do me a favor, open the door and let them in. Trilogy Happy Birthday questa mattina per Tiziana di San Martino Canavese, festeggia il suo compleanno con Pink Tri, Paul McCartney, Let Them In e Michael Bublé all'interno di queste tre canzoni. Buon compleanno, buon Tiziana, compleanno. Tanti tanti auguri. Oggi compiono gli anni Ivan Lendl, nato nel 1960, grandissimo tennista ceco naturalizzato americano, sì, sì. Primo mm-hmm. numero uno al mondo, sì. Ricordiamo. E tra l'altro sua mamma Olga è stata la numero due al mondo. Ah, sì, questo sì. Non lo sapevo. E lui la prendeva in giro perché era numero uno. Giustamente. Il 7 marzo del 59 nasceva Luciano Spalletti, giocatore di calcio, Spezia, Viareggio e Empoli, ma soprattutto la sua carriera da allenatore a partire dall'Empoli, dall'Udinese, all'estero, in Russia e poi adesso alla Roma. Alla Roma. Ma c'è anche un altro appuntamento importante, sì, compie 70 anni, cifra tonda, un attore che io ce l'ho sempre nel cuore, non so come dire. Andrea Roncato. Di Gigi Andrea, che vorrei ricordare in uno dei suoi camei più famosi, che è questo qua. Permette? Loris Batacchi. Dove lavora lei? Capo ufficio Pacchi. Era per spiegare meglio il concetto. Era per spiegare meglio, insomma. Sì, c'era il gesto, no? Non so se si ricorda cosa faceva. Sì. Auguri anche ad Andrea Roncato. E se anche voi volete festeggiare il vostro compleanno grazie alla Trilogy Happy Birthday, ci sono dei modi per contattarci. Esatto, il numero di SMS 342 41 41 762 oppure la mail dedicata che è trilogy@radiomontecarlo.net. Wide open behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. I Don't Wanna Live Forever, Zayn Malik e Taylor Swift. E così chiudiamo la nostra prima ora. Adesso la redazione e le breaking news. Welcome to Radio Monte Carlo. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. I know that the spades are the swords of a soldier. That's not the shape of my heart. You don't know me by now. You will never, never, never know me. Radio Monte Carlo. Solo musica di gran classe. Day, Bruce Springsteen su Radio Monte Carlo, 8:10 apre la nostra seconda ora. Bruce Springsteen che va ascoltato a volume bello sostenuto. Beh, certo. Perché... c'era stata anche, vi ricordate, una polemica qui a Milano quando si esibì allo stadio Meazza a San Siro, volevano abbassare i decibel perché erano troppo alti, anche perché intorno allo stadio ci sono abitazioni, case. Io ho sentito un concerto di Ligabue a un chilometro di distanza. Vabbè. Beh, certo, sì, nel caso di Springsteen furono gli stessi spettatori a dire abbassa perché vogliamo dormire, sono 4 ore che suoni. Andiamoci a letto, perché Springsteen ha quel problemino lì che si lascia prendere un po' la mano. Però l'inquinamento acustico è importante. Assolutamente. Ed è fastidioso. È uno dei principali problemi del centro città, proprio di città. Andiamo a parlare perché c'è un articolo che oggi sulla stampa, una bella doppia pagina, che dà qualche speranza a chi vorrebbe vedere le nostre periferie un po' più belle, un po' più, diciamo, riqualificate. Sì, lo sapete, ieri il governo italiano ha stanziato 500 milioni di euro per una prima tranche di provvedimenti che dovrebbero riqualificare i quartieri periferici delle città, che voi sapete molto spesso rendono piuttosto difficile anche la convivenza, ci sono disagi, mille problemi, e l'obiettivo è andare a fare una serie di provvedimenti che riguardano, da una parte, migliorare gli edifici che sono presenti, dall'altra creare tante occasioni di aggregazione. Chissà, non c'è naturalmente una lotta al rumore tra i provvedimenti varati, ma certo è uno dei tanti disagi che si vivono soprattutto nelle città più popolose. Infatti, insieme al traffico c'è il caos che ne deriva, tant'è vero che hanno fatto una classifica mondiale delle città più rumorose. Allora, l'Italia non è che sia messa benissimo, perché la città più rumorosa è Roma, che è al 15° posto. Ah, sì? Certo, non siamo ai livelli di New Delhi, che non a caso vince in questa particolare classifica, però ci dà l'idea di come il problema del rumore molto spesso sia anche vicino a noi. Certo. Anche perché porta poi a problemi di udito anche in giovanissima età. Pensate, Nuova Delhi, Canton e anche il Cairo hanno la maggior parte di problemi di udito relativi alle persone giovanissime, insomma. A stare in mezzo al rumore si rischia veramente di sentirci poco. A tra l'altro cioè, con sulla cuffia da 40 anni per forza. Ma noi facciamo delle visite per vedere se è tutto a poco. Dovete sapere che Valli un controllo semestrale. Quando Valli toglie la cuffia e la appoggia in maniera tale che sia aperta, anche a distanza di parecchi metri uno sente come se fosse un altoparlante. Infatti ci diciamo abbassa le casse, ma in realtà sono le sue abitudini. Ma tra l'altro, tra i provvedimenti sono stati, diciamo, deliberate anche degli abbattimenti che faranno discutere, tra cui quello delle vele di Scampia, resi famose da tanti fatti di cronaca, di fantasia e non. Due palazzoni in modo particolare verranno abbattuti, poi ci sono insediamenti abitativi di riqualificazione che saranno adottati, e poi una cosa particolare, verranno creati nuovi impianti sportivi, perché sullo sport si punta molto, si ritiene che sia una forma, un pretesto per aggregare giovani in ambienti sani e lontano magari da cattive tentazioni. Però il rumore ti distrae, io penso alla macchina e alla musica in macchina. Quando tu hai il volume particolarmente alto della musica e ci sono, non lo so, c'è del traffico, c'è un punto particolarmente complicato da attraversare, ti manda veramente un po' in panne quella roba lì, per cui il rumore di un'intera città. Mi dici la classifica le prime 5 posizioni delle più rumorose? Le abbiamo dette: Canton, Nuova Delhi, il Cairo, poi Bombay, Mumbai e poi anche Istanbul. Anche la Istanbul. Turchia è presente in queste classifiche. E invece c'è anche la classifica delle meno rumorose, ve la daremo tra poco perché ci sono delle sorprese. Bene, bene, allora 8:13 minuti, Radio Monte Carlo, adesso c'è Paola Turci. E sei più bella, le mani stanche, e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto, e sei più bella, sopra pensiero, tutto si ferma, ti vesti in fretta, e sei più bella, e dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione, sorridi e non ti importa niente. Yeah. passano inverni e sei più bella. E finalmente ti lasci andare, apri le braccia, ti rivedrai dentro una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Quando sei davvero tu e sei più bella quando non ci pensi più. Bella per te, questa era Paola Turci su Radio Monte Carlo. 8 e 17 ci confermano una cosa che è successa a Torino domenica: c'è stato il blocco del traffico totale, c'era un silenzio surreale. Confermo. Vero, quando c'è il blocco del traffico ti sembra di essere veramente in un altro paese, in un altro mondo, come un'astronave, perché poi sei abituato così tanto al rumore che alla fine lo confondi col silenzio e quindi quando c'è silenzio veramente tu dici oddio dove mi trovo, c'è anche uno spaesamento. È vero, ti senti anche in imbarazzo se hai la bici che cigola un po', perché dici non vorrei disturbare. Le scarpe nuove. Ma infatti tra i fattori che generano più rumore, oltre al caos del traffico, il clacson eccetera, c'è anche, pensate, il rumore degli pneumatici sul pavé. Voi sapete che produce un livello di decibel molto alto, che molto spesso infatti crea anche disagio. Vediamo se siete d'accordo con me. Il rumore più fastidioso è quando vai a mezzogiorno a pranzo. A mezzogiorno quando ci sono. Io pranzo mezz'ora e mezza. No, mezzogiorno nel senso la pausa pranzo. In qualche locale o in qualche ristorante. Dato che le persone vanno lì, hanno un'ora di tempo per mangiare e magari fare due chiacchiere con i colleghi, non capisci niente, sembra la Torre di Babele. Sì, è vero. Ma un rumore incredibile. Piatti, forchette, gente che dialoga. Sì, ma poi gente dialoga. Che urla, perché ovviamente essendoci rumore la gente tende ad alzare sempre di più la voce, fino ad arrivare a dei livelli di decibel neanche a Sanremo si sono sentiti così. Io ci metto il trolley sul pavè, sapete, quando porti la valigia arrivi in una città come Ferrara, Venezia, queste città dal centro storico molto antico, sembra che si avvicini un esercito, esatto. Invece è un tizio con una valigina anche piccola, certo. E infatti alcuni trolley sono stati vietati in certe città a meno che non abbiano le ruote di gomma come gli pneumatici delle forse auto. Proprio a Venezia, se non sbaglio. Esattamente. Giusto? Quali sono le città più meno rumorose? Allora bisogna andare, vabbè, in Europa, questa è una buona dalla notizia per noi. Alla prima. Sono diciamo tutte tra le Alpi e la Scandinavia. Al quinto posto abbiamo Stoccolma, al quarto posto Monaco di Baviera, al terzo posto Oslo, al secondo Vienna e attenzione, svetta in vetta questa classifica delle città meno rumorose. Sì. Zurigo. Ci credo, chiudono i locali alle 4 del pomeriggio. Che c'entra, scusa. Come che cosa c'è? Con tutto il rispetto, vi voglio bene agli svizzeri, hanno tante belle cose, però la sera non c'è più niente, cioè chiudono tutti, per cui poco rumore. Poi lì non devi fare rumore, scatta subito la multa. Con questo accento qua. Subito la multa. Comunque Monaco tra le più silenziose, hanno specificato che ha fatto la classifica, a parte quando c'è l'Oktoberfest. Eh beh certo, perché lì comunque anche perché si riempie di italiani e quindi a quel punto la classifica si spalla completamente. Ok, 342-414-162, messaggi WhatsApp e WhatsApp vocali. Volete integrare la classifica con la vostra città, quella magari più rumorosa in cui vivete, scrivetecelo appunto a Radio Monte Carlo. Va bene, adesso c'è la nostra musica, sono le 8 e 20 minuti, DNCE, questa è Kai Kebai The Ocean. Oh no. carefully, let's start living dangerously. E 23 minuti, questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato delle città più rumorose, in classifica svettano comunque le città dell'Asia e ci siamo comunque anche noi con Roma. Assolutamente, Roma e Milano. C'è chi dice che a Ginevra e in Svizzera hanno particolari abitudini in maniera tale da lasciare la città silenziosissima. Dopo le 22 non si tira lo sciacquone. Sì, perché fa rumore. Ma no. Se a me scappa alle 23, scusate. L'esasperazione della regola, questa. Non è vero. Però ci scrivono anche qualcuno che esiste una camera particolarmente studiata che si chiama camera anecoica, che è la camera del silenzio, assoluto silenzio. Però non resisti più di 45 minuti perché rischi la follia. Il silenzio chiaramente assoluto può portare veramente a problemi, anche perché non siamo abituati, non l'abbiamo forse mai sentito. C'è chi invece cita i martelli pneumatici dei cantieri. Terribili. Chiaramente terribili. Allora attenzione, perché tra poco giochiamo con Radio Monte Carlo. Apriamo la linea verde da questo momento, 800 04 64 64. Radio Monte Carlo, grande musica. walked a lonely mile in the moonlight. And though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. For every step I thought of you, every footstep only you. Every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining, my heart was lost on a distant planet. And whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. Era Sting su Radio Monte Carlo, 8:33 minuti e siamo pronti a giocare. Gioca con noi Monica di Asti. Buongiorno Monica. Ciao Monica. Buongiorno, buongiorno a voi. Come stai? Bene, bene, grazie. Senti, Asti è una città rumorosa? Abbastanza. Sì, non troppo, però nel limite, diciamo che è sopportabile. Sì, il centro cittadino, perché sì, poi intorno, voglio dire, ci sono zone franche, no, dove si sta bene. Esatto, dove abito io. Quindi sono fortunata. Abiti in zona franca, quindi in campagna, non paghi l'IVA, queste cose. Esatto. Scherzi a parte. Cosa fai nella vita, Monica? Io dirigo uno studio medico. Ah, bene. Lavoro cioè, importante. Porticelli che deve venire a fare un esame. No, ma smettila. Vi aspetto volentieri. Te lo prepariamo noi, non ti preoccupare. È un esame non necessario, ma Porticelli lo fa per suo piacere personale. Sì, sì, esatto. Sarò condannato a farlo prima o poi, va bene. Attenzione, perché dobbiamo scoprire, per farti vincere una t-shirt di Radio Monte Carlo, con quale gioco ti confronterai. Sei pronta? Ok. Vai. Indovina il film. Ah, quella, bene, indovina bene. Il film. Ti intendi di cinema? Sì, sì, qualcosina. Speriamo che non sia difficile. Tu sei sposata, hai figli? Sì, ho tre figli. Beh, allora sei avvantaggiata, sì, diciamo. Sei avvantaggiata e scopriamo il perché. Ascolta. Mm. Trovarsi qui. È estinta dal Cretaceo, lo capisci? È impossibile che si trovi qui. Porca miseria. Oh. Mamma mia. Hai capito qualcosa per caso? È un po' complicato. Non... Parlava... È un film Che parla di dinosauri? Può essere, può essere. Non abbiamo detto niente. Vuoi sbilanciarti o vuoi un secondo indizio? Sì, un secondo indizio. E allora andiamo. Che velocità hanno? Il Tyrannosaurus Rex va a 50 km l'ora. Lo dica ancora. Tyrannosaurus Rex. Beh, hai avuto un'altra conferma. È facile. È Jurassic Park? Attenzione, no. Sentiamo. Professor Grant, mia cara professoressa Sadler, benvenuti al Jurassic Park. È lui, esatto. L'avevi capito subito, ma giustamente rititubante. Sì, d'altronde sì. Un medico non è che può spararla, deve essere sicuro. Certo, ma l'hai visto tu il film? Sì, l'ho visto, tutti, bene, anche bene, l'ultimo. Bene. Allora, noi ti regaliamo una t-shirt di Radio Monte Carlo e grazie. Ti auguriamo buona giornata. Ciao Monica. Anche a voi, ciao Monica. Te lo mandiamo. No, ma cosa? Ma ci andiamo tutti ad Asti. Una vestaglia quella aperta dietro, no, che così si già bello fresco. Che paura, ragazzi. 8:36 minuti, questa è Radio Monte Carlo.

Francesco Gabbani apre la nostra terza ora, sono le 9:08 minuti e questa è Radio Monte Carlo. Buongiorno, non credo che questa sera i tifosi del Napoli faranno home, faranno anzi, molto di più, faranno yam al massimo, ma faranno molto di più perché il grido The Champions dicono arriverà fino a Torino. Esatto, perché è diventato famoso anche chi è abituato al Santiago Bernabéu, una bolgia, come i giocatori di Real Madrid. Chissà se rimarranno intimoriti da questo urlo quando echeggia la sigla della Champions esplode in tutto il suo fragore. Sentiamo le ultime note. Passato per evitare che gli esplodessero i finestrini della macchina, ma comunque potete immaginare 80.000 persone che gridano The Champions. Abbiamo ancora tre squadre in Europa, in Champions il Napoli e la Juventus e la Roma che si sfiderà con Lione in Europa League la settimana prossima. La settimana prossima. Buone possibilità, è chiaro che l'impresa più difficile sembra la rimonta del Napoli, serve un 2-0, ricordiamo il bellissimo gol di Insigne all'andata e 2-0 è proprio il risultato con cui mi viene in mente, faccio un paragone ardito che non c'entra niente, con cui battemmo i tedeschi a casa loro nel 2006, un altro risultato aspettato da pochi. Anche lì non c'era, cioè in tanti non speravano di poter passare in casa con la Germania e invece due belle perete, una di Grosso e l'altra di Pier Piero e siamo andati a Berlino, come dicevano Bergomi e Caressa. Ovviamente questa sera saremo lì tutti a fare il tifo per gli azzurri, perché insomma se passa una squadra italiana è motivo di orgoglio per tutti. Facciamo un bel gesto, uniamo la nostra contro, diciamo la verità, quanto sta sulle balle Real Madrid, onestamente io non tifiamo Real Madrid, dai, qualche italiano si metterà lì a gufare, cerchiamo di portare delle italiane avanti in Champions più possibile, così poi dai sappiamo che si aggiunge un posto, quello che abbiamo perso qualche anno fa a vantaggio degli inglesi. Portiamo un po' il nostro calcio, i nostri colori, dai. Certamente. Beh, se c'è qualche amico di Napoli che questa sera sarà allo stadio, ci vuole chiamare e ha, che ne so, delle scaramanzie da fare, delle cose, ci chiami e noi andremo in onda con lui. Con le vostre macumbe, diciamo. Sì, sì. Con le 342-41-41-762. Avete visto che comunque blindatissimi i calciatori del Real Madrid. Sì. Assolutamente. Una fortezza, hanno scelto un hotel insonorizzato proprio per evitare che i supporter del Napoli andassero lì di notte per non farli dormire. Però i napoletani sono stati a quanto pare molto sportivi e la sfida si deciderà sul campo. Vorrei salutare il mio barbiere che sta in Viale Pasubio qui a Milano, che all'andata io andai a tagliarmi i capelli, lui dopo poche ore aveva l'aereo per Madrid, andò a vedere l'andata, quindi sicuramente chissà se sarà al lavoro, se tornerà a Napoli per il ritorno. Va bene, visto che l'ha detto lei, io saluto il mio amico Claudio che sono due giorni che non dorme in attesa di questa partita. Però Guaglio, stai tranquillo, goditela stasera, va? È giusto. Allora, scrivete se avete qualche rito scaramantico da raccontare, proprio voi che siete a Napoli, come state vivendo questa attesa. Che siete di Napoli ma magari lontani da Napoli e quindi trepidate ancora di più. Adesso su Radio Monte Carlo c'è Daido. I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that makes sense. White Flag era Daido su Radio Monte Carlo, le 9:15. Allora, intanto, tra le varie curiosità c'è anche questa pizza, come abbiamo sentito nel notiziario, per che Ronaldo. È stata fatta proprio per Ronaldo. Con la scritta CR7. CR7, pizza margherita regolare, sì, classica napoletana. Sì, sì. Scrive un amico, un'amica: il calcio cancella qualsiasi crisi. Ma non è che cancella, è che per 90 minuti uno si dimentica di altre cose, ma non è solo il calcio. Un po' di svago, tutti dai, gli svaghi, sano svago. Se no è proprio una vita di menta. Ma sentiamo, per esempio, pensiamo per esempio a quelli che sono italiani all'estero, quelli che quindi la squadra del cuore la possono seguire solo in TV. E abbiamo una mamma. Sì, abbiamo onda. Teresa da Gragnano, Napoli. Buongiorno, Teresa. Buongiorno. Ciao, come ciao stai? A tutti. Forza Napoli. Sì, Forza sì. Napoli sempre. Senti, stasera vai alla partita, te la guardi in TV, che fai? No, io lavoro stasera e non la vedo, ma mio figlio e mio marito sicuramente. Sì. Ok, ma tuo figlio dicevi che è ancora a Londra o è stato a Londra? No, lui lavora a Londra, vive là. Ok. E ovviamente conosce tutti i pub che danno le partite, sì, certo. E lo conoscono tutti. ma tu hai scritto che lo cacciano via dai pub. È un po' esuberante. Sì, perché è un po' esuberante. Diciamo che mio figlio è alto 1,94 m. Allora può farlo. Però scusami una cosa, stasera gioca anche l'Arsenal, che è una squadra inglese, cioè lui va al pub e li convince a cambiare canale sul Napoli o ci sono dei posti particolari colonizzati, diciamo? Sì, ci sono dei posti particolari, oltretutto i pub sono molto organizzati, perché danno varie partite su vari schermi e sono poi anche, ci sono molti tifosi inglesi del Napoli. Sì. Lui una volta in un pub ha incontrato anche Paolo Sorrentino. Addirittura, una bellissima esperienza. Questo Paolo Sorrentino è stato sottoposto alle torture di tutti i tifosi. Ci credo. Videochiamate con le famiglie, una cosa. Esatto. Va bene, come si chiama tuo figlio? Toto è il pattiziere a Londra. Ah, fantastico, lo salutiamo, salutacelo quando lo sentirai e forza Napoli, come dicevi. Grazie a tutti. Senti, Gragnano è una trentina di chilometri da Napoli, non è che si sente anche lì l'urlo del San Paolo o non arriva? È probabile. Ma in realtà è tutto un urlo, la zona vittiana. E urlate pure voi, è certo. Va bene, grazie Teresa. Ciao Teresa, buona giornata. Ciao, sono Umbi da Napoli. Stasera guarderò la partita con l'immaginetta di San Gennaro in mano. Rito scaramantico più di questo, ognuno si organizza come crede. Giustamente. Va bene. 342-41-41-762. 9:17 minuti, questa è Radio Monte Carlo. Taking time or time out, I can't take the in-between. Asking me for space here in my house, you on the hop with me. Acting like we're not together, after everything that we've been through. Sleeping up under the covers, I'm so far away from you. Distant, when we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers, I'm so far away from you. Distant, ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, yeah. Whoa. Si chiama Cold, sono i Maroon 5 e questa è Radio Monte Carlo. Allora, riti scaramantici per l'incontro di questa sera tra Real Madrid e Napoli. Che ci dicono? Chi in queste occasioni non riesce a sopportare la pressione e un po' d'ansia sale. E allora scrive un amico, dice: non riesco a vederla la partita. Sto in casa con tutto spento, televisione, sì. Sento le urla dei vicini se il Napoli aumenta la sofferenza. Ma è un inferno così, è terribile. Vabbè, contento tu, caro amico. Franceschi di Napoli, ma vive a Brescia, dice con cognome molto napoletano: tengo il tipico cornetto in tasca sempre. Bene, bene. Quello sì, ci vuole. E noi ancora una volta diciamo forza Napoli, forza, quindi Napoli, insomma, che vada tutto veramente bene, ok? Radio Monte Carlo. Great music. Sono i Backstreet Boys su Radio Monte Carlo. Allora, novità. Ci ha incuriosito una notizia che parla di asili nido. Sì. Ma non per i bambini. Non per i bambini, anche perché sapete che nelle grandi città soprattutto è molto difficile poter trovare un posto per accudire i più piccoli. Pare che in realtà però stia prendendo piede in Italia una moda un po' particolare. A Roma, a Milano, a Verona e a Napoli, questo sì, riferiscono i giornali, sarebbero nati degli asili per adulti. Scusi, gli asili per adulti. Mi faccia vedere l'articolo. C'è un signore, sì, signore di una certa età, sì, che ha la tutina con gli animaletti, gli orsetti. In una culla. È un rigonfiamento tale che fa pensare a un pannolone, ma è in un lettino di quelli con la gabbia, come da bambino. Sì. Con le apine sopra. Esatto, incredibile. Ora, noi sappiamo che molto spesso gli maschietti soprattutto hanno queste regressioni, sì, no? La sindrome da Peter Pan. Sì. In realtà questi servizi, che pare stiano prendendo piede, una cosa incredibile, siano dedicati soprattutto a quegli adulti che vogliono mettere da parte le responsabilità quotidiane e vogliono per pochi minuti, poche ore al giorno, lasciarsi accudire da altre persone. Ok, quindi si fanno mettere il pannolino. Sì. Assolutamente. Lo vedi il manager d'azienda che va lì a farsi mettere il pannolino, scusa. E se lo fanno pure cambiare, nel senso, anche se qua specificano gli organizzatori, non c'è nulla di sessuale, di chiaramente. Morbosi, no, nulla, certamente. Allora, c'è un kit che ti viene dato all'ingresso. Sì. Tu ti spogli del tuo abito, la giacca e la cravatta, indossi tutone intero, felpette con ciabattine, ma se vuoi puoi stare anche scalzo. Sì. E niente, ti viene messo questo pannolino. Come all'asilo. E tu non puoi, diciamo, chiaramente, come un neonato, non è che hai possibilità di decidere. No, certo. Tu fai quello che ti viene chiesto di fare, puoi stare lì, fare giocare, ti fanno il solletico. E così c'è anche la scaletta della giornata, tipo, grazie al messaggero che ci dà anche questi dettagli. Sì, com'è quindi la scaletta? Allora, dalle 11 alle 12 accoglienza e giochi, dalle 12 alle 13 coccole, disegno e lavoretti. Coccole, caste. Cos'è che pensate? No, dalle 13 alle 14 pappa e cartoni animati, dalle 14 alle 16 riposino, coccole e IG. E per chiudere coccole e salute finale, cioè tutte coccole. L'igiene è importante. Okay. Mi fa specie anche alle 14 lavoretti. Credo lavori manuali, costruzioni, il bricolage, incollare le figure. Comunque vabbè, e pare che sia già tutto sold out. Attenzione, non è un asilo affollato, al massimo sei persone, sei adulti, bambini alla volta. Quindi noi siamo 4, Brena 5. No, per lei si proprio se lo dimentica, ma proprio scritto tutti, domani andiamo dopo la radio, andiamo là. Anche perché nello scivolo non ci stiamo, ci sta solo Porticelli nello scivolo dell'asilo nido. Almeno fammi godere di questi momenti. Però guardi, stiamo toccando veramente il fondissimo. Lo so, ragazzi, questa notizia c'era, ma è colpa di Michalizio, non è voluto parlare a ogni costo. Perché lui è interessato, ha già chiamato, visto che chiamava il numero. Abbiamo sempre bisogno di idee nuove per fare business, e a quanto pare questa funziona. Ma il grembiulino te lo danno? No, il grembiulino no, all'asilo nido no, lì è solo tutina. Tutone, quelle cose lì. Venga che le faccio i grattini, venga che le faccio. No, lasci stare, no, mi fa impressione lei, ma lasci fare, va. Cosa tra le braccia e non questa distanza che mi sputa in faccia. Se siamo ancora qui ad imparare come illuderci, a preoccuparci della verità, vedrai che poi il tempo non ci tradirà. Sotto un vento di libeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare, e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Se siamo ancora qui ad ignorare le difficoltà, impareremo anche a comprendere che esiste

One Call Away era Charlie Puth su Radio Monte Carlo. Cosa fa il mio microfono? Cosa fa lei qua? Sto cosa preparando fa? Lei allora, il rumore di voi. La volete finire? Dovete tu prepararti per la musica. Lei si deve preparare per le ricerche del campus. L'unico che non fa niente è lei, vale. Esatto. E infatti io sono qui a bacchettarvi. Tra poco ricerche del campus con Stefano Andreoli. Radio Monte Carlo. Solo musica di gran classe. Di Come to My Head su Radio Monte Carlo e adesso ci siamo col ricercatore. Le ricerche del campus con Stefano Andreoli. Sono molto curioso perché la vedo armeggiare da un po' di tempo con questi fogli. Sono ricerche che parlano di animali, chiaramente. Il tempo è poco, ma non posso esimermi dal dirvi che i bombi, sapete, quei grossi animali simili a calabroni, le vespe, quelle grosse, ebbene, sanno giocare a calcio. Se come? Vengono addestrati a dovere, possono giocare a un gioco simile al calcio, ovvero portate questa biglia oltre questa linea. Ah, sì. E loro colpiscono veramente come fossero piccoli calciatori alati questa biglia e quindi insomma l'apprendimento degli animali tocca nuove esaltanti vette. Bene, ma di animali bene, vorrei parlare, sì. Questa ricerca io l'avevo lasciata un po' indietro, l'avevo accennata tempo fa, poi me ne sono colpevolmente scordato, perché parla degli spermatozoi degli animali. Ebbene, è uscita questa notizia, ad animale grande non corrisponde spermatozoo grande, diciamo che non è come il pennello, sapete, sì, la parete. Sì, sì, sì, va bene, sì, va bene. Okay, va bene. Ebbene sì, elefanti e balene per esempio li hanno molto più piccoli degli umani, questo è, ah, sì, è importante, ma la cosa più curiosa è sapere in tutto il regno animale chi ha gli spermatozoi più grandi. Sì. Ebbene, è venuto fuori che lo spermatozoo più grande del regno animale è quello del moscerino, signore e signori. Ne porta uno solo a tracolla, perché è più grande di lui. Poi lo molla e fa: ciapa, sono stanco. Ecco qua, pensate che liberazione. Ha visto, ha visto. Grazie al campus a Stefano Andreoli, che tornerà domani con le ricerche del campus. Ma prego. Su Radio Monte Carlo, adesso Weekend e Daft Punk. Questa è I Feel It Coming. What you really like, baby, I can take my time, we don't ever have to fight, just take it step by step, I can see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake, and the heat between your legs, you've been scared of love, and what it did to you, you don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. You are not the same. It's the perfect time. I'm just trying to get you high. Fade it off this touch. We don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch. Monte Carlo. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on. get over losing you. And if I seem broken and blue, walk on. E siamo così arrivati alla fine anche per questo martedì 7 marzo. Grazie a tutti voi amici e amiche, grazie a Mattia Brena, ciao Matti. Ciao a tutti. A Monica Tognini, a Monica Ghezziperi con il nostro Claudio Michalizio. Ci sentiamo domani. Alle 6 puntuali con lui, a Marco Porticelli. A Massimo Valli. Chiudiamo con Stefano Andreoli. Allora, allarme in Corea del Nord, Kim Jong-un, sapete il leader, quello un po' pazzo, ha lanciato 3 missili in mare. Ma niente, non riesce a farli rimbalzare, lui ci prova. Dai. Ma non ce la fa. Cadono. Va bene, tra poco Max Menegoni e Monica Sala, subito la nostra redazione. E noi ci sentiamo domattina alle 7. Buona giornata, ciao! Ciao.